ma invece resto in posa come Susa. E la tua nave incurante scorrazza sul mio culo a sposa, spanato da bonaccia, all'avventura! Da 20 anni incastonati sul soffitto, si fissano i miei occhi lucernari, ma quando li diverto, inverto il mito. Inforco a cavalcioni la seggia nella sala del trono e contro i proci ritorco 20 dardiocchi lampanti di tuoi amanti e li intrattengo con una canzonetta li rintrono, poi tosto li distolgo e te lo rendo riflesso nei tuoi occhi, sfolgorante lampeggio, talvolta ostendo 20 turgori di capezzoli, languida d'altre femmine incastrate tra me e me da probi viri. Allora il cuore sgromma e travaso di sospiri. Talvolta garrula perpetro anche propositi celestiali di rinnovo locali che mi smottano nel ventre, mi frulla nella testa. Allora mi sguaino lasciva e disanello lesta. Ma senza la mia fedeltà proverbiale non c'è più sale e si smontano. Il loro riso sguaiato si smorza di brutto. Così li metto in imbarazzo, così li spiazzo. Allora per forza mi rifaccio la scorza. Ma quando riprendo il filo e filo liscia, a questa scorta l'umiliazione però talvolta viscida m'abbeai di te concetta. Ma più m'abbea e più mi preme ancora, sobbalzi in gola d'ansia che mi strozza, lo stesso discorso che ogni notte e ogni giorno ritesso con la stessa premura e stesso scorno. Lenta e solenne, a trasognar la tela, per te appartamenti torno. Da 20 anni non dormo. Col tronco che acceca il ciclope conficcato negli occhi vitrei di cartapesta. Ma quando esco dal gregge e scarto fole e speme, mi alzo e appoggio il naso alle vetrate fredde delle finestre e guardo scorrere come ombre morte le mie lacrime contorte. Nel tempo ormai scaduto del severo interregno, nel poco tempo che mi resta dell'obnubilato reggimento, piango me, desolata reggia, piango me, pretendente di me consorte, usurpatrice me della mia stessa sorte, e l'ancella alle calcagna, cagna senza cuore, stappa le conserve. Mi segno in fretta e mi schiodo di scatto dalla seggia. Straniero, è finita l'udienza.